Sì, i ripetitori, quelli del coso, della RAI, dai, della TV. Quello, il cemento che c'è a Monte Oro è 54 metri, mi sembra. Adesso vedi che va in occhio. Non c'è nessuno. PMR. È bello alto, A me me l'avevano detto un po' di più, ma l'avevano detto. No. Sono carico. Vedi. Sulla defilia mi sistemo tutta l'attuazione. Lui ha giù Buruevi c'ha a fare. E ma io sono altro fisso, capito, più grande. Uno è portato, l'altro no. Io posso fare il microfono grande che c'ho. Vedi, questo non è il Baofeng, questo è un altro. C'ho lo smito, c'ho tutto. Frequenze 1, 2, 3, 4, 3, 4. Sul display che avevo altro capito. Cappa che ti sento. Aspetta. C'è nessuno su 10. Antonino già è Antonio, boh. Però adesso mi ero qua. Boh, già c'è successo. Ehi. Ah, sì. Già ci sono già. E allora perché non rispondi? Mio, ho fatto una prova col Baofeng. Ah, mi senti? Sì, già va bene già. Cavolo a Gianni, a chiusura. Sì, io ce l'ho anche ieri notte a partire. Vedo, no, io poi a una certa ora ho chiuso. C'è Tonino che ha fatto una bassa e tra un po' entra. Io non posso permettere più di altri perché non lavoro, chi lavora non può farlo, ma io già non ho problemi per alzarmi tardi davanti. Lavoro non travagli più, no? Ho dato già. Vabbè, è fatto un doio, avevo che ha fatto da noi. Lavorate che dovete pagarmi la pensione. No, è prima o poi che anche tu la dovrà pagare pure a noi. Certamente che sì. Che sei pensionato. E allora c'è contagio. Oggi non c'è tanto freddo, c'è umidità stamattina che la vuol dire nel tuo manzano. La matta che ne mi fai, ha messo col bigliato tutta repa apparente. A faccia. Non stava piovendo molto, però era ancora più girellina fino a fine. Ma in bicicletta ti piglia in pieno. Ah, bicicletta, ieri. Eia, dopo con i buchi della difesa. C'avevo lo zainetto dietro pieno, due buste collegate nelle braccia. Non basta lavorare con la bicicletta. Mi devo arrangiare, cioè, cosa faccio? E adesso ti mi dai battere, mi dica che macchinetta, anche piccola, va bene. Avevo la carringhezza, rimbongo. Un poco di roba. Allora, tanto siete in due ancora. Poi già ti spiego cosa è successo. Qualcuno sotto. No, non c'è nessuno, io non sento nessuno. Sento un qualcuno sotto, sento. Io sono in cucchia, non sento nessuno. Oh. Sarà lì vicino a te allora. Ma vedevo anche l'ago muoversi. Oh, esci a vedere. Chi è che vuole entrare? Avanti! Sono tornato. Ehi, Tony. Ciao, Tony. Ehi, è così, al colè. Ehi. Cosa hai coperto tu? Cosa? Un po' che hai coperto un po' tu. Ma se ricopri nulla, c'è un bel. Aspetta, sei così. Uno dietro. Prova. Così. Così va benissimo. quando ti lo porto in bomba, non si comprende niente. Ma dai, io vi lascio un attimino che vado a farmi la doccia. Dai, ci sentiamo tra un po', dai. Asciugati bene. Bene, anche tu, fatti questa doccia. No, io quando tornavo dal lavoro non la facevo, appena tornavo mi facevo la doccia. Vabbè, io finisco alle 2:10, non me ne sono a casa, mi lavo, mi sdraio, capito? E poi mi vesto, non la roba di lavoro, giustamente. Ci sono quelli che stanno tutto il giorno vestiti al lavoro, ci sono delle turbini a Porto Ottone, che venivano a fare la spesa la sera a tardi, sempre vestiti dai turbini. Noi abbiamo il nostro collega che è la stessa cosa, lì. Non si chiama mai. A volte mi dà chi tratto me che è divisa. Va la spesa, questi qua, va. Fanno la spesa, tornano a casa, sempre visto di dare il turbino, di domani mattina di nuovo con la salute. Oddio, oddio, non vedo l'ora di. Io portavo in gis prima, ho fatto il corso. Per 15 anni avevo in gis. Poi tra vecchi architetto Monsirosa, Silvia. Si mette il pantalone a divisa, e tomata. Allora io vado a Cinzia e mi danno sempre le misure sbagliate, mi dicono che sì, pantaloni non ne ho. È un problema suo, no, veramente il problema è di lei, non mio, perché io non vorrei proprio che non so mai che buttate qua. E fatto la supplina, se faccio una lettera, quel giorno ho preso il fallo, era vicino alla porta, e detto, scusi, si mi dica, se ne va di fuori al cancello a fumare, perché a lui dà fastidio al fumo, e io non può fumare, ma lo so molto meglio, come perché fa parte della sicurezza, mi rimasta in mezzo. Così impara, e col detto ho detto, hai fatto bene. Vabbè, fate ciò che dico, fate ciò che faccio, così. E beh, certo, e tanto ciò che si è fatto a vedere, non posa. E vedrai che non fuma più, mi esce a mezzo. Ieri, se ti danno, prendi calore e danno male, danno rato, danno male. Prova che domani lavoro poco. A me il programma, quanto torno, se quanto pare, mi ha cambiato il programma a Sassari. Vabbè, via Istria, magistrale, succursale, ragazzi. A Istria devi andare. No, via Istria, succursale, magistrale. Ah, capito. A parte? Sì, sì. Vuoi attraverso il mio Gorizia, prima di fronte al nuovo. Non sei contento. Non va con TV. Vabbè. C'è qualche lavoro da fare. Vabbè. È poco, dai. Già c'ho l'aiutante domani, meno male, con l'uomo. Metti la riga dall'inizio. In capo. Infatti, siccome non viene l'altro collega nostro, ha telefonato, se mi permesso non posso venire. E infatti mi ha detto, il coordinatore mi ha chiamato, ha detto, è il nuovo, non posso lasciarlo solo, non lo conosciamo bene, quindi. Te lo prendi tu? Va bene, ok. Ma a me come si trovano sempre bene con i nuovi? Volevano venire sempre, gli piaceva venire con me. Io... C'è il corso, per esempio, Paolo Panda, che con lui c'è già la bellezza 14 anni, ma sempre con me vuole venire a lavorare, diglielo tu, in famiglia con te, anche io non posso fare nulla, si deve sia, se non lo deve fare raga, con la benzina. Vabbè, andrà bene, esce un messaggio della buonanotte, esce e manda qualche uno, me ne copio e manda gli altri. Mi sono avviato adesso per il 28 perché era un giorno stamattina, la bidilla ha preso del formaggio quello per sciogliere casco, il buon buono. Bello, bella veramente parecchio. E metto, e tu non me l'hai ordinato perché tu me l'hai detto che portavi il formaggio qua a scuola. Però me l'ho ordinato per il giorno 28, già sono in figlia. Vabbè, il formaggio buono l'abbiamo trovato noi a Stintino, ci sono trovati questi tipi di Mutusolo, la macchina, eravamo al mare, ce l'hanno venduto tre forme, buia, ma buono, ce l'ho fatto assaggiare prima, erano tutti organizzati, ci avevano anche il coso per l'imballatrice in macchina, quella che mette la roba sotto vuoto, tutto funzionante con la presa elettrica, tutto grande. E a quanto va lato? 18, non me lo ricordo. Questo del passore è 11 il formaggio. E a 10 la peretta. Cazzo, diciamo, ma la via, va, che c'è la 409. E vuoi piccante di quello un po' stagionato, semi stagionato. Piccante al punto giusto. Ma buono, veramente buono. Se ci do di Andrea, abbiamo preso 100 euro di formaggio, abbiamo aspettato. Vale. Niente, cosa da vino, ha messo il tecnico, si ha preso una forma da 3,6 kg, era uno spettacolo solo a guardarlo, ah, che bello. Anch'io li ho presi così grandi, ne ho preso due forme e mezzo di quelle grandi. Che roba, quello lì, lo metti nel microonde, lo sai quando si scioglie, che buono, le panca rosava, ui ui ui. Oh già, mamma va, dice mia, 409. Certo, e la Giovania? Ah, cazzo di giù, se fate di cabusoio, ma se devo fare già, dico, cosa devo fare nuda, posso fare nuda? Dite domani a nuda, è possibile, è possibile. Vabbè, guarda, guarda che si girano le balle, cioè le balle mi girano proprio la ruota adesso. È brava, chiama la propria medica che dice cosa devi fare, io ti direi di fare 5 unità in più. Ci vado una notte a farli, infatti ne ho fatto, invece di fargli le metri ne ho fatto 30. Non scherzare con l'insulina, me. Cosa devo fare? Cazzo, poi mangiano, se ti gocca non si muovi. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Se tu la dieta in coma diabetico sei fottita. Ma dipende cosa ho mangiato. Ma hai tutto, Doni, di tutto e di più. No. Devo andarci piano, io stasera guardo un'insalatina, cuore di iceberg con la carota fatta fina, è un pezzetto di formaggio, boh, senza pane né niente. Cosa vuoi fare? Vuol dire non ha più grande, torna a futinuta, cosa ti devi fare? Cosa devo fare? Io non posso fare nulla. Ma prima di aumentare le dosi ti conviene sempre telefonare, capito? Io ho il numero emergenza lo stesso. Toni, ma notte che fa le dosi, fa quello, fa quell'altro, tanto vado di gabusoio. Fa di testa sua, Toni, fa di testa sua. Ma va male così. Guarda che il diabete è una malattia bastarda. Silenziosa, un corpo è un esempio. Vedi, già ne si frutti, di piglia, lo sciroppo. No, non me ne frutto. Io già ci sto attento. La notte è un po' che mi frega. La mattina ce l'ho un po' alta, ma non così, che così alta. Massimo 200, 180, 200, ma non a 300. Mai così alta io, mai. Una volta solo quando mi sono bevuto una bottiglia di aranciata fatta, mi è alzata a 2,40. Il dottore si è incazzato, non devi bere quella roba lì, solo acqua, infatti. Io di solito ce l'ho sempre al 120, 130, capito? Sempre per i 20. Anche io un giorno ce l'ho così, 132, 98, solo la mattina ce l'ho alta, non capisco perché mi sale la notte. Non è la notte che mi sale. A meno che mi mangio qualche bozzi o qualche gelato, come facevo prima. Poi il barattolo non mangio più. No, io non ne mangio di gelati d'inverno. Estate solo. L'estate se buono, mamma mia. Gelati che l'estate lui. Luca. Sì, solo un attimo, sto scrivendo la 25. Succhia bene la guarda medica, fai prima, dai. Ti dirà di fare 5 letta in più, sicuramente ti dico così. Che 5 letta in più li faccio già, quelle della notte. Invece di fare 20, ci vuole sta facendo 25, 26 ho fatto 30. Vabbè. Perché se poi l'aumenta la notte è un casino, capito? Allora, discorso di quelle, secondo la testa sua, no? Perché io non come altro, no? Che io molte volte la sento, se non faccio casino, tipo le 3, 4 del mattino, lei è convinta che si fa l'insulina durante la notte, siccome è lenta, si alza a mangiare, si mangia la banana, si mangia la pera, ed è sbagliato. Si alza la notte a mangiare. Eia! Non devi più mantucare nulla, finito. Ed è convinta, di guardare, poi c'è il problema al cuore, anche c'è il pacemaker al cuore. Stai dicendo che uno di questi giorni lei ne prende una bella scossa. Io adesso per dire l'ho fatta di su, non ti occupi nulla. Poi se ho 7, bevo acqua. Io la faccio a 12, che ho pure età. Poi quando mi corrico. Prima di mangiare prendo la Milano, di metterci qua centro. E minimo devo passare 2 ore. Ma io posso passare anche 3-4 ore fino a quando sono sveglio, ho capito. Poi bisogna addormentarmi, faccio l'insulina. Non agisce la notte piano piano. Infatti io ce l'ho sempre normale. Io ho il diabete che viene a quelli dopo i 60 anni, quello normale. Poi il diabete tipo 2 è 6.000, ecco, ma ce l'ho io. Calma. Che palle però. Ma e vabbè. Tu a volte lo sento l'ago, a volte niente. No, mia lo senti lui. Io diabete la pasta, come metto, dottore, se tu riesci a regolarti con pasta non devi cadere né insulina né pastiglie, nulla. Anche a me mi ha detto, se tieni una bella dieta io non ti do niente, no, a me piace mangiare giusto. lo so, così non è pieno, lo sa di più. Ma come fai a non mangiare, c'è una cosa buona di mangiare, un pochettino ma devi mangiare, dai. Cambio il carattere, perché la gente è a tavola comincia, ehi che buono, assaggiare quello, che buono, quello lì è più buono, ah che buono questo qua, proprio veramente è buono, che tu grimbelli. Allora, gli ho fatto il punto del dito, poi ho premuto per il sangue, no? Come ti c'è più di 400? Mica mi sono sbagliato. Quanto ce l'hai 400? 409, sì. No, troppo Luca, troppo. Te ne fa guarda America. Cosa ha fatto, Doni? Cosa chiama la guarda America? Cosa tu vuoi dire Busoni? Cosa andiamo a fare la guarda America? Cosa la chiama a fare? Dimmi. Se fa di tetta sua e si alza a mangiare la notte. Tutto sotto lucchetta l'ho messo. Deve sgridare, così non lo fa. Lasciato con il dottore che ce l'avrebbe sgridata, con quelle glicemie lì. Tanto ti controlla tutto, con le glicemie dei 6 mesi ti controlla. E da lì capisce, non è che tu magari l'ultimo periodo fai dieta per non far vedere che c'è la glicemia alta, no, non funziona così. Quella cosa indicata a casa ti misura la glicemia dei 6 mesi. Io quando ho fatto le analisi, e metto, hai fatto un monello? Sì, qualche pezzo di cioccolato fondente. E chi te l'ha ordinato? Il dottore ha detto, no, non lo sono ordinato io stesso, perché so che il fondente lo posso mangiare un pezzettino senza abusare, se bruciare lì. Ci sono sempre i zuccheri, Torino. I dolci proprio, cazzo, se no a me non mi piace il tiramisù, non me lo presentare il tiramisù se non me lo mangio tutto. Budino, tiramisù. Sto tutto evitando io, tutto. Lo so, ne ho abusato, il pancreas non lavora bene, quindi è inutile che noi diamo zuccheri e poi è un casino. Bisogna stare attenti. Manco più banane sto mangiando, io me sono già 5 anni che non mangio banane mie, si incanti. Anche io non le sto mangiando, ma la banana non è una cosa che mi ha mai attirato, me lo sa. Ma contiene molto potassio, ecco cos'è, mi piace la banana, mangiare una qualche volta, una volta a settimana, non lo uso più mai niente, pazienza, ormai mi sono abituato, come caffè lo bevo amaro io stesso, ma quando sui strutturali è sempre caffè amaro. Banana, ti piace la banana? E la banana ti rimane in sì, ma non ho capito, chi è questa che risalita che c'è mia, a Luca? Ma madre. Mia madre. Ma se mi c'è? È anziana. Non lo prendi, non devi mangiare. Poi quando sono anziana sono come bambino. Che casino. Tu te l'avevi serrato da ciare io. Hai avuto un tetto, no. Poi c'è questo che quando non lo puoi fare ti attira ancora di più. Lo so che a me piace quando vedo tanta roba buona già, però dico, non mi voglio far male, io mi voglio bene, evito, lo so, domani in cuore ma evito. Quando c'è il compleanno stesso mia figlia, la torta un pezzettino con il cucchiaino, torno un bacio un secchetto. Oia, lasciamo un bustile. E tu pensa che ci sono bambini che nascono con diabete, che non possono mangiare manco una caramellina, e per i bambini deve essere peggio, che vedere altri bambini che mangiano la caramella, loro non la possono mangiare. Poi mi hai gelato, fedele, coso, e cosa ci vuoi fare? E un collega mio, quello che mi ha preso tua macchina, ha diabete che è nato così, e se non si fa l'insulina, non c'è più. più sparisce, c'è un altro mondo. Lui lo deve per forza fare. E si fa 3 insuline al giorno, pensa un po'. Lui è nato. Io se non lo faccio io, per volte me lo sono dimenticato la insulina, mi sono venuto un litro, non mi ha fatto nulla. Ma ripeto, perché non gioco con il diabete e che lo devo fare per forza. A giudizio, buono, se non ha più canale di vita, se non ha più voglia di vita, basta non farsi più insulina. È semplice, no? Certe volte l'ha detto. Non te ne fa più e ciao, e se non va. Non deve mangiare, quando ci fa l'insulina, deve dormirsi in lumbaglia, per quello agisce piano piano, lenta lenta, la notte. Ma non sai che conti si fanno loro, dice, cazzo, è inutile che lì, che noi vediamo l'insulina, spende un sacco di soldi e poi non fa... Capito cosa dicono? Sbagliato. Perché l'SR fornisce le medicine ai diabetici, e se uno per dire non fa la dieta, no? Cioè uno può anche sgarrare una volta, ma non è tutti i giorni che può fare. Lo so. C'era quel mio collega, per esempio, che lui ha 51-53 anni, c'è già un diabete come il nostro. Ma lo vedi mangiando cioccolati, caramelle, il tutto, ma vabbè, mica c'è il diabete. Poi, ho provato a fare più insulina. Beh, ci credi che la glicemia sono sempre bassa, ho detto, sta attento, non è buffona. Ma che bel... Roberto che abita al corso, boss. Ho capito. Cioè, quello che sto dicendo io, forse. Che c'è il naso un po' piegato. Sì. Finisce con la S il cognome. Carpa, Merintis. Un cognome c'è anche Maroggio. Ah, la conosco, Iagare, visto. A voglia che lo conosco. Ehi, a lavora con noi. Come si dice? È il cugino del mio principale. La moglie Gilda. È il cugino di Daniele, del mio principale. Bugiano già conosce bene. Meia. Comunque, bisogna stare attenti. Insomma, la tiene tutte, per carità, ragazzi. Io, la verità, da ragazzo ne ho approfittato. Sempre la mia sera, la viennetta, te qua. Ero sano, grazie a Dio. Da uno che aveva ricoverato, ma non duri, tutti che mi hanno giù, ci mi hanno avuto. È così che si deve fare. Così che si deve fare. Casino, bisogna stare attenti. No, riprendete un attimino, che io ci conti e che mi metto a letto. Mi studio. Ma facciamo la musica. Ma Gianni, in giro marocchino sopra i viti. Una settimana e mezzo. Aspetta un attimo che vado a spegnere la stufa che c'è troppo caldo. Ma la stufa della cucina. Oggi ha acceso questa, poco fa ha acceso l'altra. Eccolo la mente piccola e scalda su. Ma non bisogna salire. C'è il riscaldamento. Ma non ho messo un passo all'inizio, poi da adesso ce l'abbiamo fatto regolare, adesso già va bene. Sì, allora sono dovuto scendere giù a spegnerla. Fatto come, se non mi si. Vabbè, dove c'è la baracchina? Su o giù? Su, in camera da letto. Ah, come a me? Sì, l'ho messo qua, l'ho messo. Poca discesa, poco capo. E tutte le cose. Adesso ti faccio vedere com'è la mia stufa. Oltre la cucina. Ecco. Mi, te l'ho mandata via WhatsApp. A poco, È fatta così, Cioè, va attaccata la bombola sopra. Sì, c'ha il coso, c'ha, si avvita sotto le farfallette. Ma già quanto scalda? Quella casa già scalda, non so. No, è comoda, poi non hai niente in mezzo, poi per questa casa va più che bene. Non va che tu mobiletto in mezzo ai ricattoli. La metti sopra e via. Ecco qui spazio, sì. Ce l'ho già da tanto tempo, ce l'ho da un'altra casa, però questa andava bene, la metti sull'armadio e a posto, non devi fare nulla, non paghi come un biletto e mezzo. Quello sì, no, io me l'ho comprata al quarzo, per non per meno, perché quando venite si va a freddo, capito? E la butti, spiego un riscaldamento e dice a freddo. Già lo so già. Ma anche noi ce l'abbiamo, se quando manca la bombola usiamo quella. Ma di solito la metto su io, a me la bombola non manca quasi mai. Vabbè, a te ti dimmi. A me manca sempre di domenica, ma io problemi non ne ho perché ne ho due cucine. Beh, va tu bene. Ce l'ho in veranda, ce l'ho dentro. Lo sai che però l'altro giorno, siccome quella della veranda non è che la uso sempre, la uso quando faccio fritti d'estate oppure quando uso il forno, perché nell'altra al posto del forno elettrico ci ho messo a lavapiatti, no? E tanto c'è il forno fuori e ho fatto così. E praticamente l'altro giorno mi sono mancato tutti e due contemporaneamente, però ce l'ho fatta cucinare vicino alla carne. Quindi non ho avuto problemi, poi ne ho tirato due. Capo, hai fatto bene. D'accordo, da Ruggiu, le stai prendendo adesso, prima le prendevi da Pistolino. Pistolucci. Il coso, il mio principale lo chiama Pistolino, lo chiama. Per una volta la Crucibuccia aveva la campana fuori, no? Una campana grande. Perché lui a volte d'estate ce ne stavano tutti quanti fuori che dentro c'era calda e quando squillava il telefono suonava la campana, no? E non stava funzionando. Cazzo, che idea è tu? Cazzo, Mucci, alzato in atto la ricara, sentiamo, usciamo fuori e troviamo a quinto secco, non si muoveva, l'abbiamo rianimato, fatto. Cazzo, io mi sono gravoso. È una campana proprio. Noi le risate che ci facevamo, le risate, cioè tutti i parole di zia sempre ultimo che si attaccava a pompa. Ehi, poi quando si incazza via da un culo. Quando non si ricordava la via, quella via da un culo. C'era occhio di Petro, era. Ma poi mi hanno un bene. Mi è rientrato. Una volta se non riceve lo stesso la muraccia, cazzo si dice dritto, a Santa Maria di Pisa, via Solari. C'è entrato in diretta la grana, girato lo stava girando prima. Cappa. E ragazzi, ridanci, uno di moto ha fasciato. Avanti. Ecco, mi ci ha messo il microfono male, a me mi puoi distruggere nel letto, tu non ti stai seduto qua. Esce bene con il microfono. È il tuo originale, già. E anche io ce l'ho tutto. Ce l'ho anche io. Beh, chi te lo vuoi che si è innamorato? Ho fatto la battuta, io non ho il microfono male, tu mi dai caracteri, ti sei preso male, e mi sei venuto a qualcuno. No, quello lì non si dà, quello lì è un microfono che oltre a essere un microfono dinamico, spesso anche precompresso come quello del toccai. Sì, è utile per fare un microfono, è buono, forse la radio a vedere proprio. Sì, sì, e va dipende anche molto da parecchio, capito? E anche col microfono normale va bene. E pronto, che paracchino stai usando? Io? Adesso sto usando il Galaxy. No, Antonio, il tuo già lo so, dovevamo trovare il Galaxy. Antonio. Fintech 550 Power. E cioè, quanti canali c'ha? Un bel po'. Non me lo ricordo, però... Non mi ricordo se ha 200 canali, no, la verità, ci ho sempre impostato fino a su, io. Oltre 45 va. Oltre il 45 va. Oh già, più del nostro, cioè quanto è il nostro o meno del nostro? Quante bande c'è? Quante A, B, C, D, quanti reali? La verità non va più corrugiata assai, non si è lasciato così. Però è aperto un po' sui canali, capito? Non è che sia molto molto, non è che abbia tante bande, però è perché è un po' particolare come apparecchio, capito? Un sistema per farlo sintonizzare praticamente devi prendere, schiacciare il pulsante rosso, devi tenerlo premuto, devi inserirli quello che vuoi mettere, poi rischiarci, ti inserisce la banda e poi devi vai su alti, canali alti, bassi, lo torni normale. È un po' particolare, capito, la modifica è stata fatta alla moderna, dai. Un UFO l'ha messo? Cosa? L'ha messo un UFO? No, ci sono delle parti, l'ho avuto anch'io uno così, che praticamente puoi entrare nei canali, per dire, l'America, la Francia, l'Italia, scegli tutto dove ci sono più canali, fai, capito? E poi devi entrare nel menu e cercare, e digitare, dai. Cavolo, ma c'ha che le CCB? No, quella roba non ce l'ha. Stazione fissa o veicolare? Veicolare, ma ce l'ho un sacco di anni, ce l'ho 10 anni minimo. E io già me lo prendo con le bande laterali come ce l'avevo una volta. Ma io ti ricordo, il primo Galaxy che ho comprato, questa Manuela abitava subito a Milano, quindi l'avevo venduto a lui, ma sto parlando più di 25 anni fa. Sì, no, questo è Intec, 550 Bravo, ce l'ho 10 anni ce l'ho, ma funziona come il primo giorno che l'ho comprato. Ha lavorato, questa radio non è che, non è come le altre che ha lavorato di meno, però funziona bene, la verità, c'è una ricezione della paura. È quella che piaceva a te, ce l'avevo anch'io nella parte, non ricordi? Sì. Questa non l'abbiamo mai data, mica il microfono suo mi dell'apparecchio, mi non è roba, cioè non è roba adattata, mi è tutta roba sua. Già lo so, non ce n'è bisogno di microfoni, c'è l'eco, c'è tutto qua, ce l'avevo, c'avevo quello e la mano come antenna, come ce l'aveva tuo padre. C'è la camera ecco praticamente pure. Sì, sì, qua adesso ho schiacciato il pulsante e l'ho disattivata. Bene, c'è. E meglio così. La cannonata sta funzionando con l'alimentatore a 5 ampere. E con lui attaccato, molto semplice. Ah, sono contento la verità, e c'è un sacco di anni ce l'ho. Poi c'è un altro gemello come microfono, c'ho, che è nell'altro apparecchio, quello che mi hanno regalato, capito? È preciso il microfono e va bene anche questo apparecchio. A me queste galaxie pure sempre la forma, l'estetica, tutto non manca niente, già verrà via ya. Troppo mio padre l'ha dato via e poi le due svizzere che c'ho, quello che me l'ha venduto, che di Cagliari, dove c'è la padina azzurrina, è bellino qua, e vedo lo sfondo azzurrino dei lassi, sopra, fianco, sempre invece la svizzera rimane bianco, è bellino l'ha fatto. Sempre Galaxy. Sì. Galaxy, Saturno. So che c'è il turbo, ho visto. Sì, ma a me non mi piace. Il turbo c'è con 100 watt. Di attacco il 747 c'è con 100 watt lo stesso. Ma per fine siamo limmi. E allora, no, ma qui migliore questo come estetica. Allora c'è il tasti, a me non mi piace. Non mi piace come estetica. Non è uguale perché già. No, c'è il tasti, c'è la tastiera, c'è il tasti con le memorie. No, ma se vuoi guardarlo lo vedi che è differente. C'è tutta la tastiera. No, allora se via c'ha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tastini si conoscevano, poi c'è tutto da notare. Anche lui è così. C'ha power per accendere, poi c'ha tutti i nostri tasti, beep, roger beep, c'ha l'ecco, e adesso se vuole attacco l'ecco dell'apparato qua, così si sente l'ecco, qui dovrebbe essere dubbio. Sì, che si sente, uguale anche per me, sto, un momento, tac, 1, 2, 3, 3, procedere, ecco, si è tolto. Poi Roger Mip, mi... ecco qua. Però non è quello delle, non è quello del gas, quello Roger Mip l'hanno cambiato. Boh, non lo so. Senti il mio di Mip. È il mio com'è, boh. Invece di fare Mip, fa ha cambiato nome. Il mio invece è diverso da tutti, fa così. Pure va bibi di bibi. Quello guarda la mia, tu guarda. Questo? E io? È più... mezzo addormentato, come dire, appunto, il tipo, il tuo è più squillante già. Addormentato? E magari lo guarda. Ah, boh. Addormentato. Il mio fa così, fa bip. Boh. Però è particolare a confronto agli altri. Boh, poi non lo so. No, sia l'ecco che il bip non si possono regolare, almeno che lo fai dall'interno. Ma io non ne tocco apparecchi, questo io non ho mai aperto una vite. No, perché io sono molto, come si dice, cioè li tengo molto originale, non è scaccia vita apparecchi, ma manco per idea. Se succede li porto dal tecnico, li fa il tecnico, è proprio una mia cosa a me. Se tu li guardi dentro sono tutti originali, sono i miei apparecchi. Il mio non è stato toccato lo stesso. L'unica cosa che ho toccato è che quando me l'hanno venduto usciva con un watt e mezzo e l'avevano regolato per trattarlo con qualche lineare grosso. Non so appena magari che ci aveva la potenza da watt. Quindi l'ho messo alla massima potenza a 9 watt. E poi arriva sino a un watt e mezzo. Ecco, l'ho regolato così, tutto lì, l'ho regolato a 9 watt, si può regolare sino a 15 e anche oltre, ha detto il tecnico, però è meglio non spostare. Ah, bisogna tenerli giusti, bisogna tenerli e poi vai con l'amplificatore, vai. Io l'ho messo anche come c'era scritto la casa, e l'ho messo il watt che diceva la casa. 9, quasi 10 in AM e 21 in banda laterale. Anche io ce l'ho al massimo. No, io 9 watt. Al massimo può portarlo anche a 20, ma non conviene perché li sfrutti il finale di impatto, puoi stare sulle scale. Io mi sa che prima devo fare una bella ventolina e faccio la portare. Io montai così, mi subisci monta. E tu quanti watt esci tu di solo con l'apparecchio? Questo qua uscirà 12 watt uscirà. Cioè il finale mi subisci c'ha. Mi stupisci. Avanti Torino. E tu come quanti watt stai uscendo con l'apparecchio solo? Ma tiro, non l'avevo misurato già. Ma ce l'ho fatta, ma te l'ho staccato però. Non lo so. C'è per me, però. No, io ce l'ho fisso, c'è la stazione di quelli grandi, con gli strumenti enormi, ce l'ho sempre fisso io. Io sono MOSFET. MOSFET mi subisci, più ti gaghi e più ti bici. Oh, e Antonio me lo ricordo da piccolino, avrò avuto penso 5 anni, 4 anni, e abbiamo fatto al Ciso, abbiamo fatto la cena di Capodanno e c'erano lui, il padre, che era Ciso con lui, e la madre. E hanno fatto i piedini d'agnello e Antonio ha detto, cazzo, mi si hanno 4 anni, cazzo, mi si piedini sono molti di gran mezza. Ma così mi viene lì, tutto ridendo. E chi non va via ragione? L'hanno fatto il padre di Manola, me lo ricordo ancora. C'era un bucaccione, non l'abbia fatto fa nulla. Ma oro, già ne aveva poco. Anzi, la foto che deve essere di capitito, allora ve li peri, tu? Sì, un po' di capelli ce li ho adesso. Non so perché è venuto a Peruccio domenica, è vecchio. Adesso mi sono cresciuti i capelli. Ma cosa hai fatto pure? Ma cosa? Sempre così sono guardato. Ma te l'avevi rasato tu? Su Facebook sei rasato. No, praticamente adesso non mi sono più rasato e quindi c'ho i capelli. No, ma io sono sempre stato così. Ma poi ogni tanto cambio, barba lunga, cioè barba decidi, dipende dal periodo pure. Ma cosa arrivano le luci? Pupu. Ma che pupu? No, io sono fatto così, a periodi cambio, capito? Molte volte c'ho i capelli corti. Andiamo, non ricordo. Cavagava. Vabbè. E la crescita sta andando bene. Per quella cosa là già. Già. È successo quello che non doveva succedere. Oh! Tutto perso? Sì. E vabbè. Pazienza. Ti dispiace? Cappa. Vabbè, cosa devo fare? Se ti è dispiaciuto tanto. Adesso. Vediamo un po' là. Con te vive, sì, vivete insieme? Sì, è in casa. Sì. Ma a Baracchio ci farà mai lì? No, l'altro giorno gli ho fatto fare delle prove. Ci sono molte persone che prima, tempo fa, parlavano marito e moglie, barattino, figli, tutto. Sì, ma se ne vuole parlare non è un problema. Che si vergogna un po'. No, l'altro giorno abbiamo fatto una prova nel circondario per vedere come uscivo, capito? Col portatile ero in giro. Ecco, che vedete di avere? Mica la vedo. No. Sì, vabbè. Per me non è un problema, non c'è nessun problema. Ma ti piace il baracchino a me? Sì, ascolta tutti. Ma qui non ci sono donne, adesso cosa lì non si troverà bene sicuramente. Se ci fossero state donne come prima, che c'era la greffa delle donne la mattina. Mi ricordo la domenica mattina entrava Serafina, entrava Ginevra, entrava. E io non leggevo di donne. Ma anche gli altri giorni, l'una, la moglie di Gianfranco Battimora entrava, la moglie di, come si chiama, di Piero Drago, la moglie di Piero Drago, insomma, sono diverse. E a partecipare quando entrava? E io? Ehi, c'era un bel donna, sì. A mio figlio non è mai piaciuto. Se fosse in sera a giro. Non è a tutti che piace. Secondo le passioni che hanno, ognuno c'ha la sua. Siamo del Gianfranco e Graziella. Non sono più insieme comunque. Già lo so. Lo vedo di tanto a lì. Ho visto da poco che ci vengono che sono di Gianfranco e Graziella. A pensare che con quei ragazzini, cioè, eravamo piccoli insieme, ci siamo visti con i figli di quelli lì. Ma te immaginate? Perché prima era il polisoccorso tuo padre, no? Eia, però con... Aspetta, una Elisabetta, l'altro era coso, il maschio non mi ricordo. Ci siamo visti da bambini, abbiamo giocato assieme pure. Io al momento che tu non avevo già detto, non c'è bisogno che tuo figlio si faccia la carta e fare, fai un disco. Sì, a che bello è un babbo. Ti ho visto che lui era già franco. Cosa? Già franco è diabetico. Già lo so. È anche diabetico forte già franco. Già fa. Sì. Roba sua diabete, no? Povera Gianna, mi ha dato in faccia con il capo. Ma la faccia è tutta a venire. Cazzo la sala, che cosa vuoi? Mi ha dato in faccia a Gianna con il capo. Che bastardo. Non si dicono queste cose. Cosa vuoi va? Lui c'è la sua vita, adesso sta con una, ma grazie la sta con un altro, quindi. nome? K. No, ti stavo dicendo, non mi ricordo il maschio come cavolo si chiamava il figlio, perché io ti ho giocato insieme con quei ragazzini. Adesso magari non si lamentano più di me, ma io tanti anni fa, nel lontano 1990, cioè c'erano la mia età più o meno, nel lontano 1990, io ci ho giocato anche insieme. Antonio lo sa che gli aveva fatto anche il bagno a casa sua, vero? Io sapevo che il figlio piccolino aveva anche lui di a testa. Non mi ricordo come cavolo si chiama, però c'hanno la mia età più o meno. Non lo so, io non ricordo, piccolino poi non c'ho più potenza. Ho dormito già in bagno. Io mi ricordo di sì, mi ricordo che avevi fatto l'augurio, vabbè non lo so. E quando venivo io a casa tua mi hai detto io sto facendo, sto aggiustando il bagno, non so che si stavi facendo, del tutto che stavi aggiustando il pito. Ho la preparazione, non mi ricordo perché tutto aveva messo. Perché stavo facendo tutto l'installata nuova, tutto di sottotraccia, per esempio. Bello no. Angelo Delfino, il trauma, manicomio, c'è un ricordo di Pal Pegastro. A chi? Pal Pegastro. Veramente. Lucchetto, Radio Caterina, Radio di Buesa di San Luca, Farmacia, Camomilla, tutti gli si frequentavano a Radio Club Lord Salvei. E poi ho entrato anche al Foresto, per la Pisa. Farmacia Leonardo. Leonardo, vabbè, dopo, ma prima c'erano proprio i fratelli, Farmacia e Camomilla erano i fratelli grandi. Sì, perché Leonardo stava come farmacia, che aveva che non poi in appassura. Comunque hai ingrassato, l'ho visto da poco a Leonardo, la farmacia. Leonardo era un bellissimo ragazzo, che si assomigliava molto a John Travolta. Purtroppo ha avuto un incidente, ha accompagnato la ragazza a ripunti, poi se ne stava tornando a piedi, suo ci ha detto, dai, vedi che ti accompagna, mi prendo il tram, non c'è bisogno che mi accompagni, stavo facendo la strada a piedi, l'hanno incazzicato con una macchina, poi se ne stava scappando, questo dottore che c'era dietro ha bloccato il tipo, ha detto, se non lo carica la sto denunciando, cazzo che l'ha caricata in macchina, cazzo l'ha caricata di più, è stato in coma per il tempo. Poi c'era un altro CD che adesso ha avuto l'incidente del fondamento del cranio. Tanto è vero, non mi ricordo che cacchio si chiamava, ma tutto lo torcio, dove le dita. E è tornata tipo bambina che non si sveglia più nuda, mi viene CD da reparia. Adesso è grande la terra, si vede lungo, con lo sfondamento per la fronte, la poverina. Manco due minuti, cioè manco un secondo. Purtroppo so quello che possono succedere, sembra che se lo sentiva il suocero, e però c'è andare qui, c'è che la Fede gli diceva la minuta come ha fatto Ugini, e ha detto che ha scavalcato il guardarino, mentre stava scavalcando questa macchina ha fatto la curva e l'ha preso proprio dove c'era entrata per salire, per andare verso la... Casino che ho sentito. E capo, il telefono era. Bianco un secondo, Tony, che devo scendere un attimino in bagno. Dai, ci sentiamo tra un pochino. Va bene. Ma dicevo già, dov'è che punto? Stava suonando il telefono a Gianni. Ah, è giusto, è che non si capisce che ho sentito. Io mando un po' di messaggio adesso. Per la tua finaccia. E Tony? Dimmi. Eccomi qua, sono sceso un attimino giù a fare i bisogni. Capite? Sto andando a stazionare. Ma non solo qui, le pareti non c'è quello parato. Sì, sono già sceso. Ah. Sì, tutto a posto allora. Tutto a posto, tutto a posto. Cosa c'è? Il primo cielo piano. Allora ti spiego. Praticamente la cameretta ce l'ho su. La cucina è giù. Il bagno c'è tutto. Tipo un soppalco, capito? Bellino. Capito. No, io l'ho visto prima, avevo primo piano, che era tutto sono giorno, e il secondo piano, la zona notte, però ce l'ho fatta la scala interna, ho fatto. Avevo quella porta, cioè potevo uscire dalle scale fuori, salire su e aprire la porta. Allora per essere in scopo e pigliar freddo, più che tanto, allora aspetta, ho fatto la scala interna. Fatto bene, fatto. No, io questa l'hanno fatta così, l'hanno fatta, no, è tutto dentro casa, però hanno fatto una specie di bello in parquet qua, hanno fatto una specie di soppalco che questa è la camera da letto, capito? Oh, cappa. Vabbè. Cosa tu hai? Oh, è rapito. Quanto pago tu? Intorno ai 300 qualcosa. Mica è tutta. Così è, se vuole a casa, se no dormo in carriera. Allora sto meglio io di te. Vabbè, tu c'hai la casa tua. No, la casa mia lo lascio per le pixie mute. Calma, qua sono in affitto io. Io la pago 400, però ci ho fatto. Io lo pago le luci, le altre, aspetta, ma adesso pago solo più che bus. E ho, diciamo, tutto il giardino, e la casa non è che sia molto grande, però è divisa, c'è la bagno, bagno, doccia, c'è la cucina, la salottino, la camera letto, c'è tutto. Ah, cappa, cappa. Ah, tu abiti, cioè, quanto ha detto che paghi lì? 4. E però già è bella, cavolo, c'è di tutto, sai. È fuori mano, però è bella. Non è stato fuori mano, io 3.600 ce l'ho fatto. E vabbè, a confronto qua che è al centro cottano, Mamma mia. Anzi, ci è andata anche bene. Sì, ma al centro c'è troppa gente extracomunitaria, fa carità. Lo so, è cosa posso, un diando. A cura che ci riuscì di pure a procurarla. Tu sei vicino a via Diego Pizza? Sì. Giusto? Sì. No, abitavo prima la via ex moglie. Cappa, ma non ci abita più. No, neanche più il padre e la madre. La madre è morta, il padre si è chiuso, ce l'ha comprato una casa, ce l'ha fatta nuovo. Tu è successo, non so, 9 anni. Sì, sì. Chi vive stati a la famiglia, cioè l'ex di mia, come si dice, di mia sorella, l'ex. Cioè, il baracchino anche del mio compagnato, diceva la rantezza, lo trovo come Andrea da nessuno, parliamo di parlare di reti. Ce l'ha ancora, non ce l'ha più di roba. Il baracchino ce l'ha sempre, l'antenna no, perché subito mi disturbava e io mi sono andato a capire che le facciate, ho detto, se non vanno a me avrei facciato il ricorre. Per carità, perché c'avevano quel vizio? Sì, perché lì c'è sempre cosa, ho visto la confusione, però non è un baracchiato. Chi ti è stato, di un'altra per la pigiare me l'ha passata, ma sai che non c'è fa. E pigiavano in antenna. Via facciate di tutto, ma io non ho una gran fine di fare. Vai, se mi avevi toccato l'antenna, cazzo la... Cioè, a me chi viene a toccarmi l'antenna e no, che cazzo l'indomani... ribongo il candelotto, ribongo. Non mi girare le balle, cioè... Non è giusto andare a sfasciare la cosa agli altri. No, a me era un po' difficile. Che ha attaccato il palazzo mio, il palo, aveva un palo di 4 metri e più la mattonella. Quando abitavo in questa zona, no? Ma non va bene così però, cavolo. E Capofazia, il vicino. E il vicino della parte, no, io abitavo di fronte alla chiusura, capito? Ex chiusura, adesso c'è la carica, c'è la, non c'è più la chiusura. Oppure si è trasferita qua. Sì, sì, sì. Ma lo sapeva chi era? Se gliel'ha fatto una sera che c'ero anch'io lì. Sono venuto a morte, un casino, te lo sì, te l'ho appena detto io. Aggiungo che la taglia picchietta, mi andrei delle mucchie, se le notte nel chiamacco. Ed ma cocco, grazie al cazzo io, sarei, l'avevo fatto, l'ho fissato io, se l'ho fatto la giusta, grazie. Azzurra, oh, come te l'abbia fatto. Questa è cosa. Oh, e tu c'è una, c'è la cosa, il paracchino leghi in quinto, 120 canali. Fa. Ma non vanno a riattaccarselo. No, io non dico tutto, ma non dico niente. Ma per questo non è importante. No. Oh, già mi avevi educato l'antenna, ho già negato di recito. Ma io divento pazzo, cioè no. Tutto, ma non mi tocca la roba mia, perché guarda, cioè, ti chiudo forte, cioè, o ti porto qualche cosa. Guarda, io sono bravo con tutti. Se c'è una, un cacciavite te lo condivido e poi me lo ritorni. Una cosa te la condivido e poi e cose. Ti do il cuore, ma non mi danneggiare la roba, perché guarda, divento una belva io, cioè io a questo caso, cioè, io ti faccio male, cioè non, ti faccio proprio del male. Io sono fatto così. No, ma grazie a Dio, ma non è mai facciato nulla, non sta, ma è stato la forza di un profino, però grazie a Dio, io sono il cuore, però nel senso, sono roba mia, guarda, roba mia, parenti miei, no, non lo voglio. Guardi, ancora telefono, sì. Ancora, telefonando sta. No, Tony, qua, è meglio lasciarmi stare in pace a me, perché sono un mezzo pericoloso, cioè. No, guarda, io ti do il cuore, però non mi faccia la roba, non me la danneggiare, perché divento cattivo. Ma cattivo però me. Tu me ne fai una e te ne voto quattro. Cioè, poi no, non vivi più, Cioè, con me proprio non vivi. Io grazie a Dio, non ho nessun problema, no, non ne ho e non ne voglio problemi, non me ne appunto niente, non mi importa, è che ha portato un po' di cose, ma non vedo l'ora di domani, fino alla giornata in bellezza, e poi ferie, e tu ferie Luca? Gamba 8. Che è l'agosto? Solo agosto le ferie, adesso si lavora. Ma è che la serata è cresce tu? Sì, qualcosa già chiudiamo. È capolanno, a me non piace parlare quando faccio il chiste tu. No, no, è un lavoro particolare. Chiudiamo il mese di agosto la sera, perché non vuoi nulla. Adesso ci sono a mare. Fino a Duburui a mare. E io bagagli e bagaglietti. Yuhu! Vabbè, bene. Dove è venuto il giorno a te? Ma il mio figlio mi si troppo. E domani a Tremacos. Oh, per me ne può bene affrontare, perché che poi non è così che non si può fare questo, o se ne siete, ma... vabbè, meglio così, come... Dai, forse l'anno nuovo ti regala la pensione, cavolo. Dai, non è che ti mancherà tanto. Ma io, forse sono sicuro che mi scoglio senza fare niente. Ecco perché mi sono comprato un sacco di attrezzatura, a fare qualche mobiletto, eccetera. Ma venimi la paranoia. Tanto sono sicuro che già non si afferma adesso. La protezione è figlio. Già lo so già. Ma dai già. Saranno cose da fare, poi per rilassarti ogni tanto. Comincia il bel tempo. Non so, magari ti piace anche pescare. sale, scegli a mare, peschi, fai, un giorno fai un'altra cosa, un'altra di fare un'altra cosa ancora, trapassi un po', dai. E quello ci fu, andavo per qui a pescare, con quella lo cannetto. Io avevo sempre 4-5 canne da 4,50 metri, poi adesso più fatto, l'ha morto il computer, poi il computer, insomma, sempre più chiaro, poi andavo a trovare quello io, per il lavoro, poi baracchino, insomma, sempre ci ha fatto. Dopo mi distrago da piccolo, poi cambiare, non farò tutte cose. Questa è la paranoia. Già lo so, già te la spassi un po', e via, tranquillo. Mi ha dato ogni 21. Dove viene l'ansia? Ho fatto per fuori, ma se no, io faccio il dopo lì, a cambiare tu. Fatela passare questa ansia, e cioè, dice gli occhi. Dopo che si stanca, dopo 1, 2, 3 anni, ti cambi di nuovo, 3, 5 anni, poi dopo che ti piace. E così ho sempre fatto, questo è Dio. Sono sempre cambiato. Adesso il computer è parcheggio. Ora si mette un ballino, mette parcheggio, baracchino, e poi un computer. Quando mi sono trovato il computer, solo baracchino, dopo c'è un motorino, e via di Dio. E allora, piano piano. Già è bello variare un pochettino, già sono cose belle. No, d'estate a me mi piace molto, molto andare al mare, mi piace. E come sono le mie ferie, perché mi rilassa tanto. Adesso i primi caldi io ci scendo, io e Sara ci scendiamo. E poi ci organizziamo, mangiamo lì qualche volta, i primi caldi. È bello perché c'è poca gente, scende poca gente e c'è silenzio, capito? No, io l'ho fatto per 6 o 7 anni, ogni fine gennaio mi prendevo le ferie perché è stato un nuovo giorno. E vado in montagna a sciare. Sì. Oh, cambiato. Canazzi, quasi fatta, Moena, Capitello, sono forse peli, Livigno, Fontano, e mezzo basso, oh vabbè. E quindi niente, sempre cambiare, ma tutto guarda. Ma non è detto che se il paracchino potesse produrre una volta, basta. Io con la moto ho fatto un sacco di motoraduni, ero un po' la 350. E adesso oh, l'ho venduto tre volte c'era sempre io con la moto, me lo rivendevo a me. Alla fine si era preparato, se lo va a fare, lo ai circoli, basta. Era bellina la moto, camminava un po'. Quattro temperature, 4 in una, se me ecco pulito va. 150, com'era? ZR, no, CPZ, pure una cosa qui. Bella moto. Ma come se già si... un poco bisanti, no, la moto. Ne hai ancora voglia o non ne hai più voglia? Sì, mi piace sempre la moto. E dopo che c'ho il pistone dopo il sangue. Sì, avevo preso la bambina di Ovinci, 250 euro aveva pagato. Quando passavo da un cano si vedeva, una bottezza. Per rombo, per cosa, 50 euro. Prima sono pericolosi. No, sono fatto, penso che la moto grossa non fatto una roba qui. La soddisfazione me la sono tolta, mi prendo una bella macchinetta, mi piace troppo la fame di fuori, non si può. Ci ho fatto veramente bene. Consuma poco, con 20 euro ci fai un bel, Ma con parlare con l'azienda, guarda, col pieno, se faccio solo il pieno, aspetta un tempo che ti arriva qua. Adesso abbiamo un tablo, ma lo fai, e col pieno, tu pensa, vai a Perpoga, la Vedoria, Lomagna, Torro Torro, Alghero, non cucina mica, sempre un po' di vicinanza. Già cammina a burro gli amarazzocci, già vanno bene già, noi abbiamo la strada, con 20 euro camminiamo tanto, è tutta roba fatta in città, non fuori la città, camminiamo tantissimo, sono delle macchine che comunque durano anche nel tempo, la verità ti dico, facciamo un sacco di chilometri. Ma voi ci stanno a fare Salghero, dove mette veloce, ci vuole 4 chilometri, a 180, e già, io ci ero lo stesso così, già arrivato lo stesso, mi dicono, cammino, ma non era maletta. No, già vanno, già, sfotto il doblò, già trumba, mi pare che ci hanno fatto a cavallo il doblò. No, è una roba. Io la macchina era 115. Guarda, se non è a 90, dopo ne avrà 105. Io la macchina mia è 115. 85 kW. A te la mia è troppo vicina. Che cosa è là sul turbo? Sì. Oh, perdone, capito di capire, non è una macchina. È un gioco, io. Io mi trovo un bel, però. Noi ce la fare tutto, già. Sono talmente meno che non sembra neanche sia un diesel. Se ci sono dietro del tempo, un diesel di tutto così non la via lì. Già lo so già. No, ma vanno bene, vanno. Poi ripeto, se li tieni bene, durano nel tempo, durano anche perché fanno un sacco di chilometri, fanno. Eia. Gianni, ce ne tratta? Adesso va. Ah, ho telefono, sei collato. Quando lo trovo mai, io domani devo lavorare. Poi da domani poi, se sono in ferie, già mi contengo di più. Ok. Un caro saluto. E buona giornata per domani. Ci sentiamo. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao, oh, buonanotte Tony. Buonanotte già, se ci senti. Dai, buonanotte a tutti. Ciao, ciao. Ciao, ciao.